parroco. Ecco, adesso riprendo la storia da dove l'ho lasciata, perché davvero è un capitolo molto affascinante. E voglio subito iniziare con un esempio, una persona, una mamma di famiglia, la mamma di quella famosa Caterina Lassagne, che era la direttrice della la Provvidenza di Ars, di quell'istituto creato dal Santo Curato, era, al dire della figlia, una donna piuttosto frivola, che per esempio non finiva mai al mattino di pettinare le sue bambine, le sue ragazze, perché voleva che facessero bella figura nella società, davanti agli occhi del mondo. Ma da quando arrivò in paese il Santo Curato, questa mamma di famiglia si sbrigava molto più in fretta e le sue bambine erano pronte in 4 e 48 per andare in chiesa. Ecco, la sua grande passione, dalla vanità di prima, era diventata la chiesa. E quando entrava in chiesa questa mamma di famiglia, si perdeva nella preghiera come il pesce nell'acqua, e sembrava che per lei il tempo non esistesse più. E tante volte qualcuna delle bambine più piccole piagnucolava: mamma, andiamo, andiamo, cercava di tirarla per la manica. Ma questa donna non si muoveva. Si direbbe che non si sarebbe detto che non sentisse nulla. E ricordiamo anche una buona abitudine che questa mamma di famiglia voleva che si osservasse nelle sue figliuole. Durante i tempi forti dell'anno, soprattutto l'Avvento e la Quaresima, mai era permesso in quella casa gustare qualcosa fuori pasto. E quando anche la Chiesa, la Santa Sede, aveva, diciamo, allargato un po' la manica su riguardo il digiuno, riguardo l'astinenza, eccetera, quella mamma volle che in casa sua si mantenessero le vecchie abitudini. E se le bambine protestavano e dicevano: ma è forse comandato questo? Lei diceva no. Anzi, dicevano: ma è permesso adesso mangiare la carne in certi giorni, eccetera? E lei domandava: è forse comandato? No, mamma. E rispondeva: allora continua a far penitenza. E la sera questa mamma di famiglia, che è un po', diciamo, un esempio di come vivevano tutte quelle mamme di Ars, diciamo, questo nuovo corso nella parrocchia, ogni sera quella mamma di famiglia riuniva in preghiera tutti i suoi cari e prima di addormentarsi si curvava sul capezzale di Caterina, che era una delle più piccole, e gli diceva dolcemente: hai detto il visita? E il visita erano le prime parole con cui cominciava l'ultima orazione della sera, appunto la compieta. Ecco, tutte le sere quella mamma esigeva che si recitasse la compieta. Bene, questo è solo un esempio. Poi si vedeva il cambiamento anche dalla profonda onestà che era entrata in questi cittadini di Ars. Un'onestà che prima davvero non esisteva in quel paese. Un tempo in fatto di giustizia non si badava troppo per il sottile, eh? Facevano come tutti gli altri, per esempio nelle vendite dissimulavano abilmente i difetti del bestiame, vendevano come fresco il burro rancido o le uova covate, il tessitore teneva il buon filo per sé e lo sostituiva con quello mediocre, la filatrice metteva la canapa in un posto umido per aumentarne il peso, eccetera, eccetera. E poi i genitori dei ragazzi si compiacevano quando vedevano i loro figli tornare dalla campagna con le mani piene di cose rubate. Invece adesso Ars si è trasformato completamente. Ars è trasfigurato e la gente si sarebbe fatta scrupolo del minimo furto. Possiamo citare questo esempio: un bambino che si chiama Benedetto Trev. Una volta prese una pera dal banco di una venditrice e senza pensarci molto si diresse a casa per poi mangiarsela. Però non ebbe il tempo di mangiare la pera perché sua madre lo vide e volle subito sapere da dove veniva quel frutto. E il bambino, che si chiamava Benedetto, fu costretto a confessare il suo misfatto. Allora cosa successe? Che la mamma gli legò le mani dietro la schiena e a suon di frustate lo riportò fino alla porta della venditrice. E soltanto là lo slegò e il ragazzo non solo dovette restituire la pera, ma dovette chiedere perdono. Adesso vediamo l'amore del curato per i suoi parrocchiani. Questo è un capitolo veramente molto molto significativo. Sappiamo che in seguito il santo curato era oppresso dalle confessioni, dalle visite di persone che venivano da ogni parte della Francia e dell'Europa. Però lui, verso i suoi parrocchiani, mantenne sempre un amore specialissimo e li chiamava i suoi cari figliuoli. E i pellegrini dovevano aspettare giorni interi per parlargli qualche minuto, no? Mentre invece i suoi parrocchiani a loro dedicava il sabato, dedicava determinate ore del sabato riservate per quelli di Ars. Mentre gli altri giorni, quando lui li scorgeva nella fila, che anche loro dovevano confessarsi da lui, allora li faceva chiamare subito, perché secondo lui avevano la precedenza, dovevano avere senz'altro la precedenza. Tanto che si racconta che la gente del paese, se voleva prolungare un po' la preparazione alla confessione, era costretta a nascondersi, perché altrimenti il curato li chiamava subito. E ha dato sempre prova di una grande dedizione verso i suoi parrocchiani. Anche quando c'era il massimo afflusso di pellegrini, lasciava tutto, per esempio, per recarsi a visitare i loro ammalati, se lo chiamavano. Si ricorda di una chiamata notturna verso le 11:30, e vennero a cercarlo, una signorina venne a cercarlo che aveva la mamma gravemente ammalata. Lo chiamò e richiamò 2 o 3 volte, il curato si svegliò, socchiuse la finestra e rispose sì, vengo subito. E quando la signorina si scusò di averlo chiamato a quell'ora così indiscreta, dato che lui dormiva pochissimo, lui rispose: oh no, questo non è niente, io non ho ancora dato il mio sangue per voi. E si racconta anche che durante un inverno, mentre lui era impegnato in una missione in un paese vicino, tornò una sera in parrocchia, intirizzito, coperto di brina, unicamente per visitare un ammalato per cui l'avevano chiamato, che desiderava vederlo, che desiderava confessarsi da lui, pur non essendo moribondo. Però anche c'è un'altra cosa da dire, carissimi, che per il suo cuore di padre, di pastore, era una grande gioia constatare come questa gente gli fosse affezionata, come fosse amato come un padre. Ecco, sentiamo un po' adesso, dalla voce di Eugenio, cosa si dice nella sua vita per quanto riguarda le leggi sante del matrimonio che lui aveva inculcato in questa gente, per cui Ars si era, diciamo, rinnovata anche nel senso demografico. Sia in cattedra che in confessionale, aveva proclamato il rigore e le dolcezze delle sante leggi. L'avevano ascoltato e compreso. Sulle famiglie del paese era discesa la benedizione divina. Come ai tempi biblici, la sposa era come una vite feconda nella sua casa, e i figli come germogli d'ulivo intorno alla tavola del padre. Di fronte alla chiesa abitavano i Cigné, che avevano 10 figli. Il signor Mandu ne aveva 12, come pure il conte e la contessa di Garé, proprietari del castello. Le famiglie Pertinan e Fleury-Trève ne avevano 15. La popolazione di Ars, durante il ministero di Don Vianney, divenne più del doppio. Solo dal 1818 al 1824 ci furono nella piccola parrocchia 98 battesimi contro 40 sepolture. Quindi veramente un benemerito, e questi e questi bambini sono tutto merito del santo curato d'Ars, che aveva inculcato questo desiderio di osservare le sante leggi del matrimonio. Però un'altra cosa il santo curato aveva inculcato nei genitori: il senso di autorità verso i figli. E difatti questi genitori, pieni di fede, mantenevano una grande autorità verso i loro figli. E per esempio ai ragazzi e alle ragazze era proibito andare senza motivo per strada o restare in casa oziosi. Quindi non si doveva mai perdere il tempo, secondo quella mentalità inculcata dal santo curato d'Ars. Quando le ragazze tornavano da scuola, non dovevano così far niente, abbandonarsi al dolce far niente, ma i loro genitori le tenevano subito occupate, per esempio a far la calza o in lavori domestici. E se erano costrette a uscire, al ritorno i genitori chiedevano conto di come si erano comportate, con chi erano state, eccetera. Sentiamo come passavano la domenica le ragazze di Ars. La domenica le ragazze uscivano soltanto con la mamma. Qualche volta Gianna Cignier, che non si sentiva la vocazione della monaca di clausura, sospirava. Oggi, dopo vestro, andiamo a fare una passeggiata. Sono stufa di stare sempre rinchiusa. E la mamma l'accompagnava per i sentieri dei campi. Una volta, tuttavia, eludendo la vigilanza materna, Gianna si lasciò trascinare da una giovane con le signorine Scipio fino ai boschi della Papès. Avrebbero chiacchierato e raccolto nocciole. Ad un tratto echeggiano alle due estremità del bosco dei richiami. Erano i giovani di Misérieux che venivano incontro a quelli di Ars e da una parte e dall'altra si lanciavano il segnale convenuto. Le raccoglitrici di nocciole se la diedero a gambe, come se, diceva Gianna Cignier, tutti i serpenti del bosco le avessero rincorse, e furono guarite dalla loro disubbidienza. Ecco, una lezione certamente andata a buon fine. Ecco, una cosa molto curiosa che riguarda il santo curato è che lui non ebbe mai nessuna vocazione nel suo paese. Ecco, si direbbe, un prete così santo certamente chissà quanti seguaci avrà avuto. Invece no, da questo punto di vista il santo curato d'Ars diciamo, ha avuto un'umiliazione. Una volta si racconta che incontrò sulla piazza della chiesa uno dei suoi giovani parrocchiani, che si distingueva particolarmente per la sua pietà. E il santo curato gli chiese: vuoi andare in seminario, ragazzo mio? E lui rispose: oh, signor curato, bisogna assolutamente che io aiuti mio padre, non lo posso lasciare da solo. E allora il curato d'Ars risponde semplicemente: in tal caso fai bene, rimani pure. Però sappiamo che avviò verso l'altare molti giovani di altri paesi. Si vede proprio che anche per lui, in questo caso, anche per lui valeva la massima del Vangelo, che nessuno è profeta nella sua patria. Ecco, adesso vediamo un'altra cosa molto molto interessante: come si svolgeva ad Ars la domenica. Vediamo anzitutto una testimonianza di una persona penitente del santo curato d'Ars. Vediamo un po' come racconta la domenica ad Ars. Là, ha raccontato una delle assidue penitenti del nostro santo, grazie allo zelo di Don Vianney, la domenica, tanto profanata nella sua parrocchia prima della sua venuta, divenne veramente il giorno del Signore. C'erano numerose comunioni. La chiesa non si vuotava mai. L'affluenza alle funzioni religiose, che pure erano celebrate a brevi intervalli, erano assai considerevoli. Il curato teneva il catechismo all'una dopo pranzo. C'era quasi tanta gente come a messa. I vespri erano seguiti da compieta. Poi c'era la preghiera del rosario, alla quale prendevano parte tutti. Al calare della sera, la campana chiamava di nuovo alla chiesa per la terza volta. Per la terza volta la parrocchia rispondeva all'invito. Allora Don Vianney usciva dal confessionale, recitava le preghiere della sera e chiudeva la domenica con una di quelle toccanti omelie che era tanto contenta di poter ascoltare. Mi impressionava il contegno di quei bravi cristiani, specialmente quello che le madri esigevano dai loro bambini. La nostra permanenza ad Ars, riferisce un altro testimonio, si prolungò fino alla domenica. Quel giorno la funzione cominciò alle 8 e durò fino alle 11. Prima della messa ci fu la processione e al Vangelo la predica. La chiesa era piena e vi regnava un raccoglimento straordinario. Non so se avete fatto un po' di conti di quante ore passavano in chiesa questi cittadini di Ars. Anzitutto la messa del mattino, a quanto pare, durava parecchio. Qui si parla dalle 8 alle 11 e abbiamo già visto precedentemente che l'omelia del Santo Curato durava almeno un'ora. Quindi già il mattino era una bella scorpacciata di preghiera e di vita religiosa intensa. Poi avete notato l'orario del pomeriggio, alle ore 13, alla una iniziava il catechismo, la dottrina, no? Seguito da vespri con pieta e rosario. Quindi per tutte queste cose ci voleva almeno un paio d'ore, penso, come minimo. Poi dice che la campana suonava una terza volta dopo cena, perché il Santo Curato chiudeva la giornata con la preghiera della sera e dava la buonanotte con una toccante omelia che tutti ascoltavano con le lacrime agli occhi. Quindi il minimo che passavano in chiesa erano 6 ore ogni domenica. Ecco, dice che l'unico difetto che Don Vianney dovette rimproverare ai suoi parrocchiani dopo questo primo periodo della sua permanenza ad Ars e dopo che si erano convertiti, diciamo, tutti a una vita religiosa intensa, era quello del ritardo alle funzioni religiose. Sembra che questo fosse un vizio inveterato in quei contadini della zona. E allora però il Santo Curato esercitò molto la pazienza e incaricava il suo sacrestano, fratello Gerolamo, di uscire dalla chiesa e invitare cortesemente tutti quelli che stavano lì a chiacchierare ad entrare, perché si vede che questi uomini alla domenica erano anche molto attirati da un po' di fraternità, di agape, per cui prima di entrare in chiesa indugiavano molto in queste chiacchiere fraterne, che poi non erano un delitto in definitiva, anzi incrementavano l'amicizia. E poi dolcemente, all'invito di questo fratello Gerolamo, entravano tutti in chiesa. Però dice che col tempo, all'inizio della messa, erano già tutti presenti al loro posto. Ecco, un'altra cosa, il riposo festivo. Il Santo Curato d'Ars aveva molto inculcato questo principio, che la domenica deve essere totalmente consacrata a Dio. Quindi bisogna riposare da ogni altra opera, naturalmente opera servile in modo particolare, però anche delle altre cose. Dedicarsi tutto a Dio, al pensiero di Dio, dell'eternità, eccetera, eccetera. Ebbene, si creò una cosa molto curiosa, cioè una specie di rispetto umano alla rovescia. Non rispetto umano ad andare a messa, ma rispetto umano a non andare a messa. Cioè in pratica avevano vergogna quelli che non andavano a messa a farsi vedere. Ecco, proprio esattamente il contrario di quello che avviene oggi. E oltre a questo, il Santo Curato insisteva perché non si esercitasse il commercio durante la domenica, durante il giorno del Signore. Non permetteva che i negozi fossero aperti. E notate che se qualcuno portava da benedire degli oggetti acquistati in quel giorno, nascostamente, il Santo Curato sentiva l'odore e non li benediva. E così pure proibiva, almeno sconsigliava i suoi parrocchiani di mettersi in viaggio di domenica, a meno che non ci fosse una ragione importante, per esempio un lutto, per esempio una visita a un ammalato grave, eccetera, eccetera. Quindi, durante la domenica, in Ars era una pace assoluta, non si sentivano cigolare vetture e non c'era nessun rumore assordante, ma solo pace. Sentiamo quello che dice un vetturino riguardo appunto a questi consigli del Santo Curato. Il nostro Santo Curato, racconta Francesco Pertinan, il vetturale e corriere d'Ars, non mi autorizzò mai a viaggiare di domenica o nei giorni di festa, ed anche gli altri vetturini non lavoravano. Quando fu costruita la ferrovia, la compagnia di cui ero corrispondente volle che il servizio non fosse interrotto. Allora Don Viennet non volle che le vetture entrassero in paese o ne partissero in quei giorni. Tuttavia, senza darmene espressamente il permesso, mi lasciò caricare i viaggiatori fuori dalle prime case o condurli fino là. Un fatto straordinario che allora fece molto rumore parve aggiungere alle prescrizioni del santo curato d'Ars una conferma celeste. Nel 1856, scrive Don Monnin, la domenica nell'ottava del Corpus Domini, durante la festa cantata, una diligenza era arrivata di fronte alla chiesa. C'erano le porte aperte e si poteva vedere all'interno della chiesa il Santissimo Sacramento esposto. I cavalli che correvano al trotto improvvisamente si inchiodarono e nonostante che il postiglione li sferzasse continuamente, rimasero immobili sotto i colpi di frusta, come l'asina di Balaam sotto il bastone del profeta. La diligenza dovette per forza tornare all'albergo. Davvero un fatto impressionante di questi cavalli che si impuntano e non vogliono proseguire perché hanno visto in chiesa il Santissimo Sacramento esposto. Ecco, quindi in definitiva Ars di domenica era un po' come un monastero in tempo di esercizi. Ecco, c'era questo silenzio di fondo rotto soltanto dal sacro suono della campana. E non si vedevano più per il paese uomini avvinazzati, rumorosi e barcollanti. E difatti un signore diceva, mi piace molto Ars perché non si incontrano mai ubriachi. Allora come passavano il tempo libero, diciamo il poco tempo libero, lasciato libero dalle funzioni religiose? Ebbene, i cittadini di Ars passavano il tempo libero facendosi visite vicendevoli, famiglie verso famiglie, e soprattutto visite a persone ammalate, persone sofferenti, oppure in amichevoli trattenimenti, per esempio giocavano a birilli, giocavano a bocce, eccetera, eccetera. Però sembra che piacesse molto ai vecchi, soprattutto ai vecchi, rimanersene seduti alla porta di casa a vedere, a passare la gente, chi andava, chi veniva, ma anche recitando il rosario, così, diciamo, privatamente. Bisogna dire che Don Vianney, oltre a celebrare solennemente il giorno del Signore, voleva che si celebrassero anche altre feste cosiddette di devozione, cioè le feste non di precetto, però sempre di rilievo nell'anno liturgico. Per esempio, il lunedì dell'Angelo, il lunedì dopo Pentecoste, il giovedì del Corpus Domini, che lui celebrava proprio nel giorno stabilito e non alla domenica successiva, come si faceva allora e come si fa ancora oggi, le feste di Santi Pietro e Paolo, di San Giovanni Battista, di San Sisto, che era il patrono della parrocchia, e poi anche della santa che lui preferiva, di cui aveva maggiormente devozione, che era Santa Filomena. Bene, in queste giornate il curato d'Ars attirava alla chiesa folle enormi, altrettanto come alla domenica. Nel pomeriggio c'erano i vespri e poi c'era anche la predica serale. E nessuno andò in miseria solo per perdere questa giornata lavorativa. E però il curato ci teneva a dire che queste funzioni non erano obbligatorie, Chi aveva bisogno di lavorare lo facesse pure senza scrupolo perché era permesso, però non c'era usanza, quasi tutti seguivano questa regola. E Don Vianney diceva, mi piacciono molto queste feste perché venite in chiesa senza esservi obbligati e solo perché guidati da un sentimento d'amore più perfetto. Come si svolgevano i giorni feriali? Alla messa c'erano sempre una cinquantina di donne e una quindicina di uomini. Ecco, e notate una cosa curiosa, che ogni giorno, ogni mattina, qualcuno della casa era presente a messa, cioè ogni famiglia mandava un suo membro, in modo che ogni mattina ci fosse qualcuno della famiglia a messa. Ricordiamo quello che abbiamo già detto in precedenza, che spesso, prima e dopo il lavoro, gli uomini passavano a salutare il Signore. E sembra che fosse una cosa impressionante vedere questi arnesi ancora sporchi di terra appoggiati al muro della chiesa mentre quei buoni contadini entravano a pregare. Ecco, però dobbiamo dire che Don Vianney, fra tanti successi anche strepitosi, non riuscì mai a inculcare in questi contadini francesi l'abitudine di comunicarsi spesso. Lui avrebbe puntato sulla comunione mensile o addirittura settimanale, però poi dopo era arrivato a sperare almeno che si comunicassero 4 volte all'anno, però nemmeno quello a quanto pare riusciva a ottenere. Allora il suo zelo pastorale aveva creato qualcosa davvero di geniale, perché si comunicassero almeno di più di almeno una volta all'anno, cioè consigliava di celebrare gli anniversari più importanti della vita, per esempio l'anniversario del battesimo, della prima comunione, della cresima, del matrimonio soprattutto, accostandosi ai sacri, ai santi sacramenti. E sembra che in questo modo riuscisse, insomma, a strappare qualche comunione in più a questi contadini del suo paese. E una delle più grandi gioie di Don Vianney nella sua vita fu proprio quella di distribuire la comunione. Ecco, questa mi sembra una cosa molto bella, una cosa caratteristica del prete. Sappiamo che oggi ci sono i ministri straordinari dell'Eucaristia, però il Papa ripete spesso che solo il sacerdote ha le mani consacrate, e questo è un ministero specifico del sacerdote, e se gli altri lo possono fare soltanto in occasioni straordinarie. Quindi il curato d'Ars, come farà anche il grande San Giuseppe Benedetto Cottolengo, avrebbe passato tutte le sue giornate in quel consolante ministero che molte volte compiva con gli occhi bagnati di pianto. Bene, ora si sta avvicinando molto in fretta la mezzanotte, carissimi ascoltatori. Allora noi vorremmo soltanto trattare brevissimamente il senso liturgico del curato d'Ars. Ecco, dovete sapere che il curato d'Ars curava le cerimonie con particolare scrupolo e aveva anche un bravissimo collaboratore che era fratel Atanasio, il cerimoniere. Con quanta cura preparavano la cerimonia, la studiavano, la provavano, anche coi chierichetti, col piccolo clero, che il curato d'Ars curava moltissimo. E i due pezzi forti della vita di Ars erano il Giovedì Santo e il Corpus Domini. Ecco, sarebbe bello adesso leggere, sarebbe bellissimo leggere una descrizione di come si svolgeva la processione del Corpus Domini ad Ars. Però purtroppo vedo che non abbiamo tempo. Vorrei soltanto dire una cosa, che il curato d'Ars, durante le processioni del Corpus Domini, curava che in paese ci fossero molti altarini, perché lui voleva fare molte soste durante questa processione per moltiplicare le benedizioni sulla parrocchia, ed era lui stesso che girava in paese il giorno prima a stimolare la costruzione di questi altarini nei vari quartieri del suo paese, incoraggiando gli addobbatori e dando lui stesso una mano. E ricordiamo anche come era il giorno del Corpus Domini raggiante di gioia. Ecco, sembrava proprio per lui che per lui fosse il giorno di vacanza. Difatti solo in quel giorno si concedeva qualche ora di riposo dal massacrante ministero delle confessioni. Prendeva le sue vacanze e lo vedevi così gioioso che davvero sembrava un bambino nel giorno più bello della sua vita. Sappiamo come alla processione del Corpus Domini ad Ars partecipava un'enorme folla, anche perché si svolgeva proprio il giovedì dopo la Trinità, mentre negli altri paesi in genere si svolgeva la domenica successiva. Quindi questa processione attirava molta folla anche dalle parrocchie del vicinato e non cedeva a nessuno l'onore di portare il Santissimo Sacramento. Eppure essendo un ometto piuttosto magro e smunto, rivestito di questi paramenti suntuosi, sacerdotali, dice che procedeva con una maestà impressionante. Gli occhi erano sempre fissi sull'ostia, pregava e piangeva, e la folla era presa da un senso di commosso stupore. Dietro il baldacchino seguiva una marea di gente dalla quale rompevano canti o mormorii di preghiera. Era veramente la festa di Dio. Ecco, adesso allora veniamo all'ultima parte di questo capitolo, che ci descrive come i pellegrini che andavano ad Asne rimanevano conquistati, e alcuni hanno voluto abitare ad Ars per il resto della loro vita, hanno voluto proprio trasferirsi come residenza in questo paese per poter avere la fortuna, la gioia continuamente di essere a contatto con questo uomo di Dio. Dice che molte persone avevano la speranza in questo modo di essere assistite dal santo curato d'Ars nella loro dipartita da questo mondo, perché sembra che se era dolce vivere in quella parrocchia privilegiata, era forse ancora più dolce morire. Abbiamo molti esempi a questo riguardo, per esempio quell'uomo, quel contadino che aveva imparato dal santo curato la vita mistica, che passava lunghe ore di fronte al tabernacolo, se ricordate, Luigi Chapanjon, ecco, morì cantando, andrò a vedere la mia diletta madre, andrò a vederla un dì. E ricordiamo anche come morì la contessina Anna Colomba di Garé, anche questa morì cantando. E abbiamo già visto come morivano anche alla provvidenza di Ars anche le bambine per gravi malattie. Tutte morivano con la pace nel cuore e anche spesso col canto sulla bocca. Quindi praticamente morire ad Ars sembrava davvero già di fare un'esperienza di paradiso per quelli che vedevano morire. E dice il santo curato che il suo cimitero era un reliquiario, perché lui, girando nel cimitero, vedeva tutte queste persone che lui aveva assistito e di tutte poteva dire ha fatto una morte santa. Ebbene, una volta anche il diavolo confermò questa bellissima grazia che veniva fatta ai cittadini di Ars, quando attraverso la bocca di un'ossessa gridò sulla piazza del paese: che sporca paese il vostro Ars, che puzza qui, ad Ars sono tutti fetenti, parlatemi della Rotonde, che era un luogo equivoco, una specie di nightclub, di discoteca notturna equivoca di Lione, parlatemi della Rotonde, alla Rotonde sì che c'è buon profumo, qui c'è una puzza che non si può sopportare, siete tutti fetenti. E sembra che anche da un punto di vista materiale Ars sembrava coperto di speciale protezione. Sentiamo cosa riferisce un testimone. Mia madre, dice Maddalena Mendiscipio, raccontava che dal 1825, quando lei era venuta in parrocchia, fino alla morte di Don Vianney, non ha mai tempestato. Essa attribuiva il fatto all'intercessione del servo di Dio, tanto più che egli stesso voleva che si pregasse per scongiurare il flagello. È stato notato, aggiunge Marta di Garé, che durante tutto il suo ministero ad Ars, nessun uragano devastò il comune. Mia madre scriveva un giorno dopo un temporale: il tuono per noi non è stato che una voce che si spegne. Il curato aveva passato la notte in preghiera. Allora possiamo capire, carissimi ascoltatori, mentre sta per scoccare la mezzanotte, come tutti quelli che andavano a casa dopo essere rimasti ad Ars qualche giorno, anche solo un giorno, ne provassero grande nostalgia e non ne potessero più di ritornare, proprio come qualcuno quando va in Jugoslavia. Ecco, sentiamo un po' anche questa bellissima testimonianza con cui concludiamo la nostra serata. Non fu senza tristezza che ce ne allontanammo, racconta uno di quei pellegrini. Come abbiamo potuto così presto affezionarci? In un luogo sconosciuto avevamo incontrato quella serenità dell'anima che porta a chiamare patria ogni luogo dove è dato di gustarla. Tra il rumore e l'agitazione della città Non potevamo difenderci dalla noia e dalla malinconia. Gli uomini ci sembravano rozzi e nemici. I discordi, le grida e finanche l'aspetto del lavoro tradivano il disaccordo o accusavano la sofferenza. L'atmosfera e l'armonia cristiane che avevamo lasciato ad Ars ci avevano resi più sensibili ai dolori umani. D'ora innanzi sentiremo il bisogno di rifugiarci nei nostri ricordi di Ars come in un santuario e di rappresentarci la santa figura di Don Vianney per essere nuovamente incoraggiati e consolati. A Don Toccanier, che aveva l'insigne fortuna di aiutare il santo, una persona di grande pietà, scriveva queste righe bagnate di lacrime. «O Ars, se io mi ci potessi trasferire come il mio pensiero, mi ci vedreste tutti i giorni. Appena partita il mio cuore vorrebbe ritornarvi. Penso alla felicità dei giorni che più non sono di quei giorni passati nel vostro paese benedetto. Come siete fortunati!» Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.